Conti fatti. La storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nel valutare gli effetti economici della pandemia da coronavirus, da più parti si è evocata la grande crisi del 1929. In termini di caduta del PIL e delle conseguenze della profonda recessione in atto, quella che stiamo vivendo è dunque la più grave crisi da circa un secolo. E il nostro paese si avvia a subire una perdita del prodotto interno lordo stimata al momento tra l'8 e il 10%. Non mancano nella storia precedenti di gravi pandemie che hanno causato effetti economici anche molto gravi. Questa sera, cari ascoltatori, torniamo dunque insieme indietro nel tempo per soffermarci su alcuni precedenti, certo molto diversi rispetto al coronavirus, ma pur sempre degni di interesse. Stiamo parlando della cosiddetta peste nera del 300 e dell'epidemia spagnola del 1918, che causò, secondo alcune stime, fino a 50 milioni di morti. Ne parliamo questa sera con Daniela Felisini, docente di storia economica all'Università Roma Tor Vergata. Buonasera e bentornata. Buonasera. Dottor Pesole, buonasera agli ascoltatori. Bene, allora la prossima settimana poi andremo ancora indietro nel tempo, nel mondo antico, ma ora, prima di tutto, vorrei proporvi un passaggio del famoso libro di Daniel Defoe, La peste di Londra, che racconta con notevole precisione documentale l'epidemia che colpì la capitale inglese nel 1665. I nostri mercanti avevano di comune accordo interrotto ogni traffico. Le loro navi non potevano recarsi in nessun luogo del continente e le loro mercanzie non erano accettate da nessuno. Si aveva non meno timore dei nostri prodotti che di noi stessi, e con ragione, perché i tessuti possono portare il contagio come il corpo umano, e se imballati da gente infetta, diventano altrettanto pericolosi della gente. Così, quando qualche volta una nave inglese arrivava in un porto straniero e otteneva il permesso di sbarcare le sue merci, queste venivano sballate e lasciate esposte all'aria per molti giorni. Ma le navi che provenivano da Londra non potevano approdare in nessun porto e tantomeno scaricare le merci. In questa misura di ostracismo verso le nostre navi erano particolarmente severi la Spagna e il Portogallo. Poco severi erano invece la Turchia e le isole dell'arcipelago, tanto quelle che appartenevano ai turchi quanto quelle che appartenevano ai veneziani. Professoressa Felisini, parlando appunto delle conseguenze economiche delle pandemie nella storia, non possiamo non soffermarci, lo ricordavamo, prima di tutto sugli effetti della peste nera del 300. Ecco, quali furono questi effetti? Ce ne furono prima di tutto? Gli effetti furono enormi. Innanzitutto diciamo che la storia è costellata di epidemie e le epidemie cambiano il corso della storia, come è stato nel caso della peste nera del 300, quella con il peggior tasso di mortalità in assoluto. Provocata da diversi ceppi, l'epidemia infuriò in Europa tra la fine degli anni 40 del 300 e il 1353 e sterminò tra un terzo e due terzi della popolazione europea a seconda delle zone. Ma al di là di questo shock demografico e della tragedia umana, guardiamo gli effetti economici. Inizialmente vediamo caos, fortissimo rallentamento della produzione e dei consumi, impennata dei prezzi, città bloccate. Ma nel medio-lungo periodo vediamo uno scenario un po' diverso. In seguito all'altissimo numero di decessi, la manodopera iniziò a scarseggiare. E la scarsità di manodopera portò ad un aumento del potere contrattuale dei lavoratori. Nelle campagne, ad esempio, se volevano che qualcuno lavorasse le loro terre, i proprietari dovevano accettare di pagare salari più alti. Il governo inglese tentò di contenere i salari introducendo limitazioni alla libertà di movimento dei lavoratori, ma non funzionò. In quella situazione caotica le autorità non avevano più il pieno controllo del territorio e i lavoratori continuavano a spostarsi laddove le paghe giornaliere erano migliori. Oltre a questa mobilità territoriale, vi fu anche una notevole mobilità sociale. Grazie alle retribuzioni più alte e in molti casi alle eredità ricevute, numerosi furono coloro che disposero di maggiori risorse sia da spendere in consumi che da investire nell'acquisto di proprietà. Queste maggiori risorse portarono quindi alla crescita dei consumi, in particolare dei beni manufatti prodotti nelle città. Si ebbe un incremento degli scambi commerciali e nel tempo fenomeni intensi di urbanizzazione, crescita delle città, dei mercati cittadini. È lì che affonda le sue radici la fioritura delle città rinascimentali di un secolo dopo. Beh, quindi, professoressa, si può dire che ci furono anche effetti positivi dal punto di vista economico. Certo, in conclusione, per quanto possa apparire un paradosso, uno dei molti cui la storia ci ha abituato, dopo la peste nera i redditi reali aumentarono e la maggioranza delle persone che sopravvissero godettero di standard di vita migliori. Bene, quindi c'è da auspicarlo che si replichi anche qualche secolo dopo per la situazione che stiamo vivendo. Ma ecco, passiamo ora al 600, che come ci ricorda il libro di Defoe, La peste di Londra, ebbe effetti soprattutto sul versante del commercio. E nel 600, ad esempio, ce lo ricorda anche Carlo Maria Cipolla nei suoi libri, diversi stati italiani si trovarono a dover far fronte all'epidemia, anche decidendo la chiusura delle frontiere. Quindi anche in questo caso assistiamo a qualcosa che non è del tutto inedito nella storia. In effetti lei ricorda il grande storico Carlo Cipolla, il quale è stato uno dei primi a studiare le epidemie e ci ha mostrato che le autorità delle città le temevano e cercavano di intervenire non solo per le tragiche perdite di vite umane, ma anche per i loro effetti economici, in particolare sul commercio. Con un minuzioso lavoro di scavo negli archivi toscani, Cipolla aveva studiato le magistrature di sanità e ci ha raccontato dell'invenzione della bolletta di sanità, una sorta di passaporto sanitario che diverse città italiane introdussero per controllare gli spostamenti di persone durante le fasi epidemiche. A dire il vero, il filosofo francese Montaigne, il quale negli anni 80 del Cinquecento viaggiò molto in Italia, scrisse che la bolletta di sanità era solo un ulteriore balzello per spremere soldi ai viaggiatori. Già. Però insomma questi magistrati di sanità erano quasi, come dire, delle autorità indiscusse allora, nelle realtà di allora. Concentravano poteri non solo esecutivi e legislativi, come dice il termine magistrature, ma addirittura giudiziari. Avevano proprie polizie e proprie prigioni in cui rinchiudere chi contravveniva alle normative sulle quarantene. Sì, infatti i libri di Cipolla poi raccontano con dovizia di particolari di questi casi, no? In cui venivano perseguiti proprio penalmente anche. Ecco, ora vorrei fare un salto in avanti e arrivare all'influenza cosiddetta spagnola del 1918, che provocò, ma le stime sono non del tutto chiare, si dice fino a 50 milioni di morti. Ecco, ci furono in questo caso effetti economici importanti anche sulle economie? Allora, anche in questo caso ci furono effetti importanti. Come sappiamo, l'influenza spagnola si diffuse, iniziò a diffondersi nel marzo del 18, ossia durante gli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale, tanto che in Europa il contagio fu favorito dagli spostamenti delle truppe, dalle condizioni igienico-sanitarie in cui questi vivevano. Ma il virus si diffuse poi con ondate successive in tutto il mondo, anche in paesi non belligeranti, lontanissimi dalla guerra, la Nuova Zelanda, le isole del Pacifico. Come giustamente ha detto lei, si stima che su 500 milioni di persone infettate ci siano stati 50 milioni di morti, su una popolazione mondiale totale che all'epoca era di circa 2 miliardi. In Italia le vittime furono almeno 600.000. Quindi un bilancio molto molto pesante dal punto di vista sanitario. Sì. Molto pesante, sì, perché 600.000 vittime in Italia su una popolazione di 40 milioni di abitanti. Certo, e poi il tutto va collegato con la situazione economica che si viveva all'indomani, appunto, quasi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Della Prima Guerra Mondiale. Sì, certo, della Prima Guerra Mondiale, certo. La grande difficoltà è quella di analizzare le conseguenze economiche della spagnola, che sono inevitabilmente intrecciate con quelle della guerra. Noi ci ritroviamo a metà del 18 con la riconversione difficilissima delle produzioni di guerra a quelle civili, le tensioni sociali, quella che sarebbe stato il biennio rosso in Italia, il rallentamento degli scambi internazionali, disordine monetario, indebitamento degli stati, rende molto difficile isolare e misurare gli effetti economici della pandemia. Cosa possiamo attribuire alla guerra e cosa alla spagnola in termini di conseguenze economiche? Un dato significativo potrebbe essere quello del prodotto interno lordo. Secondo le stime dell'economista Angus Madison, il prodotto interno lordo pro capite dell'Europa occidentale cala del 3,4% nel 18 e del 5,9% nel 19, a guerra finita ma in piena epidemia, per poi risalire nel 20 del 4%. E quindi comunque ci sarà un rimbalzo nell'anno successivo, certamente. Certo. Ma per avere un'idea degli effetti economici ci può essere utile il caso degli Stati Uniti, in cui gli archivi hanno conservato tanta documentazione. La spagnola colpì alcune città americane in modo violento. L'esempio, uno degli esempi più celebri è Filadelfia, dove nella sola prima settimana si ebbero 5.000 morti, con scenari di tipo medievale, i cadaveri ammucchiati nelle strade e poi sepolti in fosse comuni. Ma anche laddove lo scenario non era così drammatico e la mortalità rimaneva contenuta, l'economia andò incontro a grosse difficoltà. A grosse difficoltà, professoressa, noi purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo, ma ne riparleremo certamente in occasione di qualche altra trasmissione di Radio 24. Io intanto la ringrazio molto, ringrazio Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla prossima settimana. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti e grazie.